io ci ho messo circa un centesimo di secondo a rispondere che l'avremmo fatta a Reggio, e quando sono tornati, diciamo, a descrivere un po' più l'aspetto organizzativo, la complessità di tutta l'operazione, ho impiegato un altro centesimo di secondo a dire di sì. Ma lo dico non per fare il fenomeno, per essere molto chiari, lo dico perché credo che chi ha ruoli anche di rappresentanza istituzionale deve avere la capacità di cogliere il senso e il significato di determinate situazioni, ed in particolar modo di cogliere quello che è lo spirito pubblico che vi è dietro un determinato progetto. C'è un prima e c'è un dopo la storia dei CCCP per il modo in cui hanno dato parole e musica a una o più generazioni, per come hanno contribuito a gemmare tante altre esperienze, per come qualcosa è partito da Reggio o da Berlino, non so da dove, ma è andato in giro per l'Italia, per il mondo e per le generazioni, e perché credo che quello che loro hanno immaginato, hanno pensato e che hanno progettato insieme sia qualcosa che meritava di essere sostenuto con grande rispetto della loro autonomia progettuale, ma anche con la grande consapevolezza che sarebbe stato un errore non farlo. Non è un fatto di gusti o di sensibilità, è un fatto di consapevolezza, di responsabilità verso una storia, e verso quella storia la sua capacità di interpretare anche uno spirito del tempo, di un tempo che c'è stato, di un tempo che c'è e in una certa misura di un tempo che ci sarà. Io l'ho sempre vissuti come qualcosa di un po' post tutto i CCP, postmoderni, citazionisti, situazionisti, ma soprattutto ho sempre pensato che facevano teatro. E allora ovviamente il teatro abbiamo pensato che era impossibile mancasse in questa situazione, nel senso che evidentemente il teatro ci doveva essere il Teatro Valli. Cosa succederà? Succederà che si chiama Gran Gala Panchettone, ci sono, oltre ai CCP, ci sono Andrea Scanzi e Daria Bignardi. Cosa succederà? Non voglio dirlo, non posso dirlo, un po' perché non lo sappiamo ancora cosa succederà e un po' perché penso che si voglia mantenere il segreto fino alla fine. Quello che succederà al Valli, credo che i più curiosi saremo noi, perché ancora lo stiamo pensando, stiamo aspettando che arrivi questa, il momento di ragionarci davvero, perché ci sono così tanti stimoli, così tante fascinazioni che ci seguiranno su quel palcoscenico, che non è detto che si trasformi in musica, sarebbe anche forse la cosa più ovvia, no? Cerchiamo di farci incantare anche a noi da quello che succede, vediamo come lo trasformeremo. Non vorremmo fare la caricatura dei CCP, vorremmo in vecchiaia, siamo vecchi, io più di tutti, ma siamo tutti vecchi, cioè Fatur sembrava un bronzo di Riace, guardatelo, insomma. Però noi vogliamo avere la stessa dignità che avevamo quando eravamo giovani e strafottenti, essendo vecchi e non più strafottenti, perché un vecchio strafottente è un po' ridicolo. Noi non siamo mai stati ridicoli, siamo stati tragicomici, siamo stati tante cose. Ecco, la mostra vorremmo che fosse, perché arriva la mostra comunque una botta, puoi detestarla, puoi andartene via, però è qualcosa di serio, è qualcosa che vale la pena di vedere. Quindi la nostra intenzione è di mettere in mostra quello, di girare con la stessa perplessità che ci poteva governare negli anni Ottanta all'interno di quel mondo che andremo a mettere in mostra. Sarà una parte un po' più ordinata, un po' più cronologica, diciamo, nelle stanze bellissime che sono al primo piano dei chiostri di San Pietro, dove ci saranno gli album, ci saranno tutto quello che è dedicato a quel percorso, e poi ci sarà una parte molto più tumultuosa, molto più immersiva nel secondo piano, che è lo specchio perfetto di un'enorme casa occupata. E questa forse è la parte ancora più forte, no? Perché diventa veramente molto emozionale camminare in mezzo a tutto quello sfacelo, però così antico, così forte, così pieno di storia. Io non avrei mai voluto essere qua. Io e Fatur non abbiamo mai avuto pensieri su una possibile mostra del CCP. In realtà l'infame Zamboni e la soubrette, sì, loro hanno cercato di sistemare tutto quello che era possibile sistemare perché poi le cose accadessero. Io ho detto, ma dai, andare là. Beh, aspettate che io muoia, voi siete tutti un po' più giovani, avete, cioè, con Ferretti morto, A, è più semplice, e B, ve la godete di più. Noi oggi non scriveremmo più Sparaiuri, io non avrei più la strafottenza di cantarla, Zamboni non farebbe quella chitarrina, e Fatur non si denuderebbe per le massaie per dargli un po' di soddisfazione. Il problema è che siamo ancora vivi, per quanto vecchi, non possiamo fare i CCP, sarebbe veramente ridicolo, però siamo una cellula vivente, ma non c'è una reunion. È sempre stato difficile perché i CCP sono sempre stati profondamente legati alla realtà e sono sempre stati profondamente sinceri con se stessi e sono sempre stati sovrastati dall'attualità, dall'accadere delle cose. Ci siamo abituati, non siamo più giovani, non siamo più belli, non siamo più strafottenti, però la nostra ragion d'essere è questa. Noi siamo anche scomodi. Noi cantavamo Spara Iuri, noi cantavamo Emilia Paranoica. È difficile che il CCP si ritrovi in Reggio Emilia e non ci salti fuori un'Emilia Paranoica. È inutile che la metti in scaletta o non la metti in scaletta, sta nell'ordine delle cose. Emilia di notte dissolversi stupide, sparire una buona impotente in un posto nuovo dell'Arci. Tum.